su queste luci il pianto, su queste luci il pianto. Crudeltà, no che lo vedrà Roma, su queste luci il pianto, su queste luci il pianto. Son tutto crudeltà, son tutto crudeltà. Pietà del Roma e nel mio cuore intanto ricetto più non ho, ricetto più non ha, e nel mio cuore intanto ricetto più non ha, ricetto più non ha. Roma, su queste luci il pianto, su queste luci il pianto. Son tutto crudeltà, son tutto crudeltà.